Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Questo è l'ombelico del mondo. Oh, l'ombelico del mondo. Localizzate l'ombelico, benissimo, adesso appoggiateci sopra la mano, leggermente aperta. Dovreste arrivare a sfiorare lo sterno. Bene, allora oggi tutti i nostri discorsi, le nostre domande si concentreranno su questa parte della nostra pancia. Con l'altra mano, quella libera, iniziate a comporre il nostro numero verde 800 24 0024. Raccontateci in diretta avventure e disavventure del vostro stomaco. Cosa fa, cosa gli piace, cosa gli dà fastidio. Se qualcuno qualcosa lo irrita, se è sensibile, brontola, è lento, affaticato, stressato. È un organo delicato, lo sappiamo, che risente delle nostre abitudini di vita, ma che interpreta e somatizza molte delle tensioni che proviamo a livello conscio o inconscio. 800 24 00 24, lo sapete, questo è il nostro numero verde, potete anche scriverci un messaggio al 349 238 6666 e come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è Coccole per lo stomaco. In linea con noi la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa presso l'Istituto Clinico Humanitas e ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bologna. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. È un organo centrale non solo per la posizione ma anche per il ruolo che svolge, per la nostra salute e per il nostro benessere. Esattamente, ha proprio ragione, perché lo stomaco è da sempre preso come un organo di riferimento in diverse condizioni, quindi non solo fisiche, ma come aveva già detto lei, anche emotive, sia positive che negative. Pensi solo che i latini avevano coniato il termine angustia, che significava stringere, proprio per dimostrare, per significare che lo stomaco si sente avvolto in una morsa, dovuto a degli stress, così come anche cose piacevoli possono provocare quella sensazione di farfalle nello stomaco, no? Quando si prova qualcosa di estremamente positivo. Quindi diciamo che è un organo veramente importante su cui noi riversiamo molto spesso le nostre emozioni. Che cosa facciamo se lo vediamo? Insomma, cosa vuoi capire guardandolo? A meno che, se Dio ci aiuta, non strangoli un passante. Non lo so, Sid, sto improvvisando. Beh, io dovrei essere a casa a lavorare alle mie magie. Ehi, perché non la prendi come una cosa che aggiunge emozione alla tua vita? Ehi, piccola, emozione nella mia vita è una cena senza bruciore di stomaco. Dottoressa Salvioli, ci sono dei periodi dell'anno in cui lo stomaco sembra più sensibile e la primavera è proprio una di questi, esatto, periodi. Esatto, la primavera, così come l'autunno, diciamo tutti i cambi di stagione, probabilmente non si sa ancora il motivo specifico, ma sono delle connessioni neuro-ormonali, il ritmo sonno-veglia, le abitudini alimentari. Tutto questo causa una riacutizzazione dei sintomi. Per esempio, i vecchi ulcerosi, quelli che hanno avuto l'ulcera nel passato, solitamente in primavera-autunno ritornano in un ambulatorio perché notano questo fastidio, questo languore, un po' di bruciore. Bene, allora cerchiamo di capire lui, il nostro stomaco, e di capirci tra di noi, perché quando diciamo ho mal di stomaco, molto spesso intendiamo problemi e sintomi tra loro molto differenti. Esatto. Quelli che sentono bruciore alla bocca dello stomaco. Quelli che avvertono acidità di stomaco dopo aver mangiato. Quelli che sentono allo stomaco un dolore profondo. Quelli che il dolore dalla bocca dello stomaco si sposta a destra e a sinistra. Quelli che il crampo dallo stomaco arriva direttamente alla schiena. E quelli che vogliono saperne di più chiamino il nostro numero verde 800 24 0024, perché oggi consigli e rimedi per stomaci brontoloni e non. Dottoressa Salvioli, una scheda che ci aiuta a fare delle precisazioni importanti, e l'abbiamo proprio utilizzata prendendo spunto da quelli che, canzone di Iannacci, quelli che sentono bruciore alla bocca dello stomaco, che cosa devono pensare? Allora, quelli che sentono bruciore può essere una gastrite, per esempio chi fa uso e abuso di farmaci antinfiammatori, per esempio per problemi di cefalea, sì, e non si proteggono lo stomaco, si possono avere il cosiddetto bruciore allo stomaco. Viene anche confuso con la nota malattia da reflusso gastroesofageo, che è la sensazione sempre di bruciore che risale dietro lo sterno fino alcune volte ad arrivare alla gola. E quindi questo è un segnale importante, se volete parlarne con noi, ci sono anche delle attenzioni nello stile di vita, nello stile alimentare che possono in qualche modo attutire questo disturbo. Ma dottoressa Salvioli, quelli che avvertono acidità di stomaco dopo aver mangiato? Quelli che l'avvertono, ci sono tanti motivi per cui l'avvertono, un po' è per la composizione di cibi, ma anche lì bisogna stare attenti perché le regole generali non valgono per tutti, perché ognuno ha il proprio stomaco e ognuno dovrebbe ascoltare il proprio stomaco, e questa è una cosa molto difficile. Ci sono dei cibi, per esempio, molto pesanti a base di fritti, superalcolici, che possono determinare un'acidità, così come delle infiammazioni fino ad arrivare all'ulcera gastrica che si fa sentire spesso con un bruciore dopo mangiato. Andiamo a Brescia, c'è Tindaro che ci aspetta, 800240024, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Eccoci qua, ci racconti Tindaro. Niente, io praticamente bevo 4-5 caffè al giorno. Sì. E la notte avevo sempre bruciore di stomaco, quindi davo la colpa a questi caffè. Ho eliminato i caffè e il bruciore persisteva. E un giorno, guardando la televisione, ho visto un medico che l'ha illuminata, mi ha illuminato, giusto, che il latte, che molte persone sono intolleranti al latte, io ero anche un bevitore di latte, la mattina facevo sempre colazione con latte, anche abbondantemente, ho eliminato il latte e adesso sto benissimo. Grazie Tindaro per averci chiamato, perché ci offre uno spunto, dottoressa Salvioli. Esatto, perché questa è la dimostrazione di quello che dicevo prima, le regole generali di abolizione di determinati alimenti come il caffè, cioccolata e alcolici, in alcune persone non vanno bene, cioè rendiamo più depresse queste persone e continuano ad avere i sintomi. Per cui a questo signore è stata diagnosticata un'intolleranza ai latticini, che nelle popolazioni mediterranee è molto comune a differenza dei paesi nordici, sì, in cui la lattasi, che è l'enzima che scinde il lattosio, più passano gli anni più è deficitare nel suo meccanismo d'azione, per cui non funziona e le persone non tollerano più i latticini e i derivati come il formaggio fresco e iniziano ad avvertire vari disturbi. Uno, il più comune è quello mal di pancia con alterazioni dell'intestino, e altri hanno proprio bruciore, quindi vede che... Vede, dottoressa Salvioli, che a volte inavvertitamente lo irritiamo, perché ci sono delle abitudini che a noi piacciono, ma a lui evidentemente no, non le vede di buon occhio. Tindaro ci ha raccontato il latte, ma ci sono anche altri insospettabili alimenti che possono improvvisamente stare sullo stomaco, al nostro stomaco. Quali, ad esempio, dottoressa Salvioli? Sì, quelli di cui facevo cenno prima sono gli irritanti, per esempio i pomodori, la cioccolata, il caffè, la menta, però ecco, sempre tenendo presente che non a tutti funziona l'eliminazione di questi alimenti. Per esempio, quando si masticano delle chewing gum, non facciamo altro che immettere dell'aria nello stomaco. Sì. E quindi a renderlo più gonfio, e la menta in chi soffre di reflusso peggiora il bruciore. Quindi masticare il chewing gum può scaricare magari l'ansia, però fa male allo stomaco. Può fare male, soprattutto in quelli che vengono in ambulatorio e dicono: guardi, io ho un gran gonfiore al stomaco, pancia, poi anche lì è difficile capire, a meno che uno non chieda esattamente, mi faccia vedere con la mano cosa intende per stomaco, perché spesso i pazienti si confondono e dicono intestino al posto dello stomaco e viceversa. Perché è tutto lì, dottoressa Salvioli, la pancia è pancia. Esatto. La pancia, e giustamente Giovanotti diceva l'ombelico al centro del mondo, perché l'ombelico dovrebbe essere il confine fra la parte superiore che è riferita al nostro stomaco e la parte inferiore che è riferita all'intestino. Infatti noi l'abbiamo proprio localizzato mettendo il mignolo sull'ombelico e il pollice arrivava allo sterno. In quel tratto lì più o meno c'è il nostro stomaco. Esatto, c'è lo stomaco, ecco, è una zona molto complessa perché c'è anche la colecisti, quella che viene chiamata cistifellea, quindi dei sintomi che spesso vengono riferiti allo stomaco in realtà sono dovuti a problemi di calcoli alla colecisti, quindi è una zona in crocevia molto delicata. E poi ci sono altre abitudini, per esempio mangiare molto in fretta inghiottisce l'aria. Noi, gli anglosassoni sono molto più bravi di noi perché hanno coniato il termine di deglutitori d'aria e noi non ce l'abbiamo in traduzione in italiano, però è per dare l'idea che chi mangia in fretta inghiottisce molta aria, soprattutto chi è stressato, e si trova lo stomaco gonfio a fine pasto. Quindi occhio, mastichiamo lentamente, potrebbe essere, per prendere un po' il ritmo, una buona idea appoggiare le posate. Tanto che mastichiamo, perché se le abbiamo in mano ci cacciamo sempre qualcosa in bocca e trangugiamo rapidamente. Se invece le appoggiamo almeno per una settimana, no? Abituiamoci a pranzo e a cena a masticare e tenere le posate ferme. In questo modo la nostra bocca è impegnata a masticare e una volta buttato giù possiamo rimettere in bocca qualche cosa. Sembrano consigli banali che rasentano un po', no, dottoressa Salvioli? Però in realtà, se voi provate la differenza tra masticare lentamente e invece, come siamo abituati a fare, trangugiare qualche cosa, mi sapete dire sicuramente che cosa troverete di nuovo. Dottoressa Salvioli, lei conferma? Io confermo, si diceva e si dice tuttora che ogni boccone dovrebbe essere masticato 33 volte. Lei si immagina la differenza che fa? Quindi tutto più lento, i cibi vengono assimilati meglio, non si tende ad ingrassare, perché è stato recentemente fatto uno studio in cui il sovrappeso è legato molto alla velocità di ingestione dei cibi. Bisognerebbe dedicare al pranzo e a cena almeno un'ora seduti, cosa che... Ecco, questo non ce la facciamo, proviamo magari 30 minuti invece che i 5 o i 10, magari evitare di mangiare il panino davanti al PC di corsa, e poi prendiamocela un pochino più con calma per tenere anche un po' sotto controllo il nostro stress. Che ti prende? Hai un'area scorbutica, sei di nuovo a dieta. Tesoro, ti ricordi di lui? Non ci vediamo da tanto tempo. Sono scorbutico, Jack. Io ho fatto una lauta colazione stamattina. Tu mi fai venire l'ulcera, me la sento. È come se avessi ingoiato la batteria di una macchina. Perché non hai trovato due fonti? Ti ricordi la storia del cardinale O'Brien? E tu ti ricordi che volevano licenziarmi? Ma se per poco non ci vinceva il premio Pulitzer! C'è un modo di dire che nasconde una grande verità. Mi farai venire l'ulcera. Lo stress prende a pugni il nostro stomaco che, come abbiamo già sottolineato con la dottoressa Salvioli, è particolarmente sensibile ed emotivo. Dottoressa Salvioli, quando un paziente arriva nel suo ambulatorio lamentando dolori di stomaco, digestione lenta, bruciore, acidità, tutti quei sintomi così fastidiosi che creano malessere, che ci fanno un po' andare di traverso la giornata, lei come fa a capire che si tratta di uno stile alimentare, uno stile di vita troppo frenetico, o invece di un disturbo che richiede naturalmente degli esami più approfonditi, degli esami clinici e strumentali? La prima cosa da fare è ovviamente un'accurata anamnesi, quindi ascoltare il paziente, vedere se ci sono i cosiddetti segni d'allarme, quindi pazienti tra i 40 e i 50 anni che hanno iniziato ad accusare questo disturbo che gli impedisce di mangiare, che sono calati di peso, che sono diventati anemici, che hanno familiarità per tumori allo stomaco. Ecco, qui si impone un'indagine strumentale quale la gastroscopia, ovviamente preceduta da esami del sangue. Ecco, se tutto invece rientra, prendiamo un esempio, i ragazzini di 20 anni, 25, che lamentano questi disturbi, bisogna farli parlare, bisogna capire il loro tipo di alimentazione, bisogna capire se questi disturbi insorgono in determinati momenti o della giornata o anche in determinati momenti della loro vita, perché spesso poi il paziente, se lo lasci parlare, ti dice esattamente quando è iniziato tutto e riesce a collegarlo all'evento che può essere anche stato traumatico nella sua vita. Quindi sempre il segreto migliore è ascoltare, perché loro stessi si fanno la diagnosi ma non se ne rendono conto perché non hanno gli strumenti. 800 24 00 24, se vogliamo farci ascoltare dalla dottoressa Salvioli, e noi prima di lei ascoltare il nostro stomaco, che è preso a pugni dallo stress. Il primo segnale che noi avvertiamo quando siamo stressati è che cambia la nostra respirazione, il diaframma si blocca. E quando parliamo di diaframma abbiamo in linea con noi Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training. Ciao Daniele. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Che è il nostro maestro del diaframma, perché ci ha insegnato a localizzarlo e a capire anche come sbloccarlo. Daniele. Sì, l'esercizio che proponiamo questa mattina è proprio molto utile nello sblocco del diaframma, si chiama purificazione del fuoco. Utile, come dicevamo, nello sblocco del diaframma e quindi nel rilascio di tensioni e stress, visto che il diaframma, che è il principale muscolo respiratorio, è il grande risuonatore emotivo, potremmo chiamarlo così. Non a caso le situazioni di stress colpiscono immediatamente la nostra capacità di respirare correttamente. L'esercizio si articola in due fasi. Nella prima fase, in piedi, con i piedi separati un poco più dell'ampiezza del bacino, le gambe flesse e le mani in appoggio, le cosce, di modo che il peso del tronco, leggermente inclinato, sia sostenuto dalle braccia, si respira diaframmaticamente abbinando a ogni espirazione una contrazione della parete addominale verso la colonna vertebrale, mentre all'inspirazione corrisponde una fase di rilascio dell'addome. C'è una seconda fase, Nicoletta, la vuoi sentire? Certo, io vorrei solamente soffermarmi su questa prima fase per gli ascoltatori che, può essere, ci incontrano per la prima volta, Daniele. Esatto, una fase ottima per chi comincia, per chi non ha esperienza, e diciamo che a prescindere da questa seconda fase che adesso descriveremo è già veramente un esercizio completo, utilissimo, estremamente benefico, piuttosto semplice come funzionalità e controllo della muscolatura addominale, però efficace allo stesso modo. Per capire se abbiamo fatto, se respiriamo in modo corretto e quindi utilizzando la respirazione diaframmatica, Daniele, basta guardare anche la nostra pancia. Che cosa dobbiamo vedere? Assolutamente, durante l'espirazione c'è come una fase di spremitura, cioè la parete addominale rientra, è la nostra respirazione diaframmatica classica di cui abbiamo parlato tante volte, ma in questo caso è come se dessimo un accento particolare a questa spremitura, spingendo con delicatezza la parete addominale verso la colonna, e con l'idea anche proprio, pensiamo veramente a una fase di spremitura, espirando. Inspirando rilasciamo questa contrazione addominale e muoviamo, diciamo, in senso orizzontale la parete addominale, possiamo dire così. Perfetto. Perché la seconda fase ha una fase invece verticale, il movimento è diverso. Nella questa seconda fase, che è perfezione dell'esercizio, l'attivazione della parete addominale viene dal basso verso l'alto, iniziando a contrarre durante l'espirazione la muscolatura della regione pelvica e della parte bassa dell'addome, e proseguendo verso l'alto in direzione dello stomaco, che a sua volta rientra e risale. Alla fine dell'espirazione si inspira mentre si rilascia delicatamente la contrazione dall'alto verso il basso. Si genera, Nicoletta, in buona sostanza, un movimento come a onda, dal basso verso l'alto espirando e dall'alto verso il basso inspirando. Provate. Ci sono altre buone motivazioni per eseguire questo esercizio, non solo per lo sblocco del diaframma e per la lotta allo stress. Se vuoi, chiudendo, te le dico volentieri, rapidamente. Volentieri, grazie. Si tratta di un esercizio molto utile per migliorare le capacità digestive, riequilibrare la funzionalità intestinale, attivare il metabolismo e aiutare nell'eliminazione delle tossine. Non è indicato a persone con problemi cardiaci o pressione alta, a chi soffre di ulcera o ernia iatale. In questi casi è meglio consultare il proprio medico. Ovviamente questo esercizio va eseguito a stomaco vuoto. Grazie a Daniele Belloni. Io intanto ho provato a eseguire questo esercizio, quindi a lavorare sui muscoli orizzontali e verticali. Insomma, il diaframma, una volta individuato e sbloccato, è un amico del nostro benessere. Grazie Daniele Belloni, buona giornata. Buona giornata a tutti. Essere e benessere. Mangiare e amare, cantare e digerire. Questi sono in verità i quattro atti di quest'opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d'una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo. Gioacchino Rossini. Bene, il nostro stomaco è vero, è un buon gustaio, nel senso pieno del termine. Dottoressa Salvioli, ci aiuta a gustare la vita, i cibi, ma anche le nostre emozioni. Ci aiuta molto, infatti chi ha problemi di stomaco ha una qualità di vita molto ridotta, non riesce più a socializzare, non ha più voglia di andare in giro perché sta male subito dopo, per cui viene a cambiare tutta la propria vita e da lì emotivamente ne risente molto, quindi diciamo che è un doppio, sia emozioni che fisicamente, e si ha questa interconnessione, quindi sia da una parte dall'altra. Soma e psiche. Diego, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Pavia, poi abbiamo Veronica da Reggio Calabria. Diego, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccola. Io ho 33 anni e ho sempre avuto problemi di stomaco, di bruciore di stomaco e di riflusso gastrico. Quando intorno ai 18 anni sono incominciati questi problemi e mi hanno diagnosticato un eccesso di Helicobacter pylori, sì. Per il quale ho fatto... A cui abbiamo dedicato una puntata intera, Helicobacter pylori, maledetto il giorno in cui t'ho incontrato. Chiusa la parentesi, esatto. Che potete trovare nel nostro archivio. Mi scusi, esatto. Diego. Io ho fatto quindi una cura, mi hanno prescritto una cura di antibiotici potentissimi che mi hanno buttato a terra per circa 2 settimane, al termine del quale il mio Helicobacter pylori, i livelli di Helicobacter pylori sono rimasti gli stessi e i miei problemi non sono stati... Quindi l'Helicobacter pylori se ne è fatto un baffo della cura, della triplice. Dottoressa Salvioli, si può... Succede, l'Helicobacter pylori può essere resistente, abbiamo un 20% di resistenza a uno dei due antibiotici che solitamente si usa, e poi lei ha avuto ospiti eccellenti, proprio specialisti in questa materia, che loro potrebbero confermare. In questo caso noi consigliamo di fare o un antibiogramma, quindi ripetere la gastroscopia con una biopsia in un centro specializzato in cui si riesca ad analizzare la sensibilità dell'Helicobacter pylori a vari antibiotici, perché può darsi che il signore sia stato proprio sia resistente a quegli antibiotici che gli si sono... E quindi se ne possono assumere altri? Ci sono diversi schemi terapeutici, ma a questo punto io mi rivolgerei proprio a uno specialista, perché se no noi andiamo a pluritrattare le persone con gli antibiotici creando più resistenze. Assolutamente. Alla fine prendi un sacco di antibiotici, non vieni eradicato, sei disperato. Hai mal di stomaco. Il danno è la beffa, insomma. Esatto, e poi c'è da dire che non sempre quando viene eradicato l'Helicobacter pylori il mal di stomaco sparisce, perché poi ci sono altri fattori, ma lì è un altro... Abbiamo Veronica che ci chiama da Reggio Calabria, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, è da quasi 2 mesi che ho un dolorino lieve nella parte sinistra con qualche traccia di muco in feci a palline molto piccole, anche se nei primi 15 giorni lo avvertivo anche nella parte destra. Adesso diciamo che sto meglio, a volte lo sento, a volte no. Vede, basta chiamare Essere Benessere per stare meglio. Comunque quando lei vede l'addome nella parte sinistra, la pancia, noi tendiamo a fare dentro la pancia, visualizziamo un po' mescolati l'intestino, lo stomaco, la cistifelia, ci facciamo autodiagnosi, ma un dolorino nella parte della sinistra dell'addome, dottoressa Salvioli. Mi sembra più riferito all'intestino. Vero? No. Mi sembra che è proprio il caso, dicevamo prima, le persone adesso che sono un po' bombardate dall'informazione attraverso il web, sì, tendono ad utilizzare termini o medici o a farsi autodiagnosi. Allora la cosa che il medico invece deve fare di fronte al paziente, gli deve dire: senta, utilizzi i termini proprio come mangia, no? Parli come mangia e mi descrive con la mano cosa sente. Questo, a quello che mi sembra di aver capito, è più riferito all'intestino, quindi esula un po' dal nostro argomento di oggi, però sembra proprio più colon. Sembra più colon, invece noi torniamo ad occuparci dello stomaco. L'hashtag di oggi è coccole per lo stomaco. Se noi consideriamo, facciamo finta che il nostro stomaco sia un amico con cui andiamo d'accordo, ma che ogni tanto ha delle reazioni che non riusciamo bene a capire. Voi potete chiamarci, ma intanto io ho chiamato la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione, forse è caduta, vero? Al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna, che, con cui vorremmo capire, dottoressa Salvioli, spesso quando parliamo di stomaco sottolineiamo gli alimenti che dobbiamo evitare di mangiare, e o le abitudini, il tempo che trova, ecco, o le abitudini di vita che dobbiamo correggere o modificare. Invece vedo dalla regia sorridente Laura Faggin che mi dice: ok, l'abbiamo catturata. Professoressa Creglia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mi era caduta sul bel mezzo, ma la professoressa, mi dispiace, l'ero scivolata sullo stomaco. La professoressa Creglia ci racconterà che esistono degli alimenti che possono aiutare il nostro stomaco a stare meglio o addirittura a prevenire alcuni disturbi. Professoressa. Assolutamente sì, perché il nostro stomaco ama tutto ciò che il nostro organismo in genere tollera senza problemi, vale a dire tutti quegli alimenti che non ci causano una sensazione di pesantezza, dolori o nausea, oppure gonfiori, oppure bruciori. Ma la regola fondamentale è mantenere anche una buona igiene dell'alimentazione. In altre parole, bisognerebbe suddividere la quantità di cibo giornaliero in tanti piccoli pasti, almeno i famosi 5 pasti al giorno, come ci suggerisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dobbiamo concederci il tempo a sufficienza per ogni pasto, e questo va contro la fretta e contro lo stress, e soprattutto masticare con estrema cura tutti gli alimenti. Già queste piccole regole di igiene dell'alimentazione potrebbero aiutarci ad evitare la maggior parte delle sensazioni di pesantezza gastrica. Ma è importante anche sapere che esistono dei veri e propri alimenti che possono essere definiti amici dello stomaco, e fra questi citiamo per primi, vista anche la robustezza della letteratura scientifica, i vegetali delle famiglie delle brassicacee, i nostri amici broccoli. Infatti un recente lavoro pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale ha riportato che consumare una porzione di broccoli al giorno, per porzione intendo circa 70-100 grammi, non di più, aiuta a contrastare naturalmente le infezioni dal famoso e dannato Helicobacter pylori. E l'altra cosa interessante è che se si sospende il consumo quotidiano di broccoli, i benefici nei confronti dell'Helicobacter pylori continuano per quasi 2 mesi. Quindi non serve un'assunzione quotidiana, basta un'assunzione settimanale che ci garantisce quell'apporto di componenti nutraceutici protettivi che garantiscono la prevenzione dell'infezione dell'Helicobacter pylori. Questo perché i broccoli contengono proprio una sostanza battericida che si chiama sulfurafane, ed è questo sulfurafane il responsabile di questa azione protettiva. Ma se usciamo dalla nostra cucina tradizionale ed entriamo un po' nell'etnico, dobbiamo citare per esempio anche il ruolo protettivo di spezie come il ginger, lo zenzero, che grazie al suo componente attivo, il gingerolo, per esempio mi stimola la secrezione pancreatica, oppure spezie come la curcuma di cui tanto si parla. La curcuma, usata nella cucina indiana ed orientale in genere, favorisce la riepitelizzazione della mucosa gastrica, che rende reversibile il cosiddetto processo di denudamento del lume gastrico che talvolta si osserva in seguito a queste patologie. E per finire vorrei citare quella che viene definita la panacea dei poveri, vale a dire l'aglio. Dell'aglio si è già parlato e si parla tanto per le sue proprietà nei confronti del sistema cardiocircolatorio, per la sua azione ipotensiva, ma recentemente si è scoperto che i componenti bioattivi dell'aglio, quelli che sono responsabili poi dell'odore caratteristico, che sono composti solforati, sono composti allilici, si dice in gergo, hanno un'azione battericida nei confronti di ceppi resistenti ai più comuni antibiotici. E tornando a bomba al discorso dell'Helicobacter pylori, la dottoressa Salvioli citava in risposta ad un ascoltatore che molto spesso questo batterio dimostra antibiotico resistenza. Esistono almeno due ceppi resistenti ai più comuni antibiotici dell'Helicobacter pylori. Bene, la documentata attività antibatterica dell'aglio e l'evidenza degli studi epidemiologici sottolineano che esiste una minore incidenza di patologie gastriche, soprattutto di tumori gastrici, negli individui e nelle popolazioni che consumano elevate quantità di aglio con la dieta. Quindi ci chiediamo, l'aglio può prevenire realmente l'infezione da Helicobacter pylori? Secondo dati di uno studio condotto su una popolazione turca che tradizionalmente è consumatrice eccellente proprio di questa spezia, l'assunzione di aglio con la dieta per lungo tempo influenza proprio la prevalenza di infezioni da Helicobacter pylori, esercitando una sorta di controllo inibitorio, indiretto, sulla riproduzione del batterio e ostacolando così la progressione dell'infezione. Non dimentichiamo che l'Helicobacter pylori è stato definito un carcinogeno di gruppo 1. Quindi, ed è associato proprio con lo sviluppo del cancro gastrico e anche del cancro al colon. Quindi broccoli, ginger, cioè zenzero, curcuma. Curcuma, ma aglio, il nostro comunissimo aglio, non in sostituzione delle terapie antibiotiche, per l'amor del cielo, ma in associazione alle terapie antibiotiche può addirittura concorrere a battere l'antibiotico resistente. Fantastico, professoressa Creglia. Abbiamo segnato tutto, naturalmente lo metteremo anche sul nostro sito. Broccoli, ginger, zenzero, curcuma e aglio, e il nostro stomaco ringrazia. Grazie anche a lei, professoressa Creglia, per essere stata con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie a tutti voi, altrettanto. E noi vogliamo sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e torniamo subito dopo insieme alla dottoressa Salvioli. 800 24 00 24. Qualcuno vi fa venire le farfalle nello stomaco? Che bellezza! Essere e benessere. Uno strappo ogni tanto me lo concedo. A chi non è mai successo? Alla sera, magari esci dal cinema, sei ancora sveglio, hai un buco allo stomaco, e allora è normale, vai al baracchino, lì, al parco, da una parte un metronotte, dall'altra un travestito, e lì in bella compagnia un bel panino con la salamella, e ti fa, cosa ci metto dentro? Peperoni, cipolle, salse, ma sì, tutto, full optional. Dottoressa Salvioli. Come sto ancora ridendo. Anche Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, se la ride, perché beh, la salamella, devo dire che proprio non è un alimento amico dello stomaco, ma no. Dobbiamo anche così farlo lavorare un po', no? Ma certo, ma pensi, scusi, a 20 anni quando uno dice... Si digerisce di tutto, anche le pietre. Le pietre, no? È proprio vero, perché lo stomaco poi negli anni invecchia con noi, quindi anagraficamente noi ci possiamo fare tutti gli interventi di chirurgia plastica, ma lo stomaco invecchia. Quando i vecchi saggi dicevano la colazione da re, il pranzo da principe, la cena da povero, è molto molto molto vero, nel senso che noi con gli anni cambiamo la capacità di digerire, quindi i ventenni la salamella se la possono ancora permettere, quando si va un po' più avanti con gli anni semmai di notte abbiamo dei problemi. Abbiamo in linea con noi Rita, che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Rita. Buongiorno. Da quanto tempo è che lei non mangia una salamella? Ah beh, non lo apprezzo, mi dispiace, non mi piacciono proprio, comunque sarà un paio d'anni. Ah bene. Allora, io telefonavo perché, dunque, devo correre tantissimo. Sì. E purtroppo a febbraio mi è successa una cosa proprio brutta, cioè che io da un giorno all'altro non sono più riuscita a farlo, a correre. Perché? Perché avevo questi disturbi non significativi, cioè disturbi all'addome. come in generale, quindi potevano essere fitte, potevano essere qualcosa di più lieve, qualcosa di anche di notte, qualcosa di non definito. Morale della storia, vado dal dottore, medico di base, mi fa una visita, dice che non ho niente, ma per scrupolo mi fa fare un'ecografia all'addome completo. Sì. Fatto anche questo e io non ho niente, io qualche dolore ce li ho lo stesso. Insomma, allora, lei corre ma la sua pancia si lamenta, questo è un po' il... Allora, il problema era che non riuscivo a correre, però morale della storia, la faccio un po' in breve. Sì, grazie. Sono stato soccorso perché avevo ancora questi dolori. E il medico mi ha fatto una visita molto più significativa, no? E mi ha chiesto quanti caffè bevevo. Allora io, vergognandomi, perché veramente ne bevevo tanti, ma molto decaffeinati, no? Mi ha detto che non andava bene. E io, guardi, da un giorno all'altro, da oggi al domani... Ha ripreso a correre. Ho ripreso a correre molto gradualmente perché ero stata ferma un mese. Ma insomma sta bene, ha tolto lei quello che ci vuole dire, che ha tolto il caffè, è stata meglio. Ecco, vado avanti con l'orzo. Allora, due ascoltatori che hanno cambiato. Uno ha smesso di prendere il latte, dottoressa Salvioli, l'altro ha deciso di smettere di bere il caffè dopo un e la pancia risponde. Ma è tutto soggettivo, non c'è giustificazione a eliminare tout court gli alimenti se non proviamo che c'è una reale associazione con i nostri sintomi, perché le persone, ripeto, quando iniziano a eliminare tutto quello che sentono dire alla TV, radio, internet o gli amici, diventano depressi. E perché non c'è nessuna giustificazione. Invece in questa signora, eliminando il caffè, è stata molto meglio. Quindi uno può fare una prova. Esatto, si fanno le prove. Adesso poi c'è la moda delle intolleranze alimentari, per cui molto spesso le persone si rivolgono a centri dove fanno questi test, eliminano tutti i cibi, non servono a niente. Anche lì bisogna stare sempre molto molto attenti. Quindi io quello che suggerisco è di compilare un diario alimentare per due settimane in cui si annota cosa si mangia e come si sente. Perché noi ci dimentichiamo quello che mangiamo, certo. Quello che abbiamo mangiato la settimana scorsa, non ci ricordiamo, ci ricordiamo se mai che siamo stati male. Certo. Invece nero su bianco si scrive, si annota, si presenta al medico e così si può guardare assieme quali sono i cibi imputati, per esempio. E dopo si toglie quel cibo e si fanno le prove. Più, dopo quanti giorni possiamo sentire avere i primi risultati? Secondo me dopo una settimana. Dopo una settimana. Ovviamente già chi fa un uso smoderato di caffeina, già dopo tre giorni sente il beneficio. Insomma, il latte e il caffè oggi sono stati presi di mira dei nostri ascoltatori, dovremmo dedicare una puntata per riabilitarli un po', perché c'è assolutamente una risposta soggettiva ed individuale. Beh, sì, Nicoletta, quando dicevo prima, alla fine il miglior medico di noi stessi siamo noi. Se noi ci ascoltassimo di più, ci renderemmo conto cosa vuole il nostro sforzo. Certo, ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno a Essere Benessere, cioè provare a diventare più consapevoli dei segnali che il nostro corpo e la nostra mente ci mandano. In linea con noi è tornata a trovarci anche la professoressa Daniela Lucini, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Professore associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, collega quindi della dottoressa Salvioli. Sì, ciao Bea, ci conosciamo bene noi. Allora, invece, a proposito di stomaco, professoressa Lucini, a stomaco vuoto o a stomaco pieno? Parlo di chi fa attività sportiva, di chi si allena e quindi che cosa si deve mangiare prima della seduta di allenamento? Allora, dobbiamo tenere presente varie cose. La prima cosa, se noi vogliamo fare un allenamento giusto così per fare attività fisica per star bene o se vogliamo dimagrire, è l'ora in cui andiamo a fare questo tipo di allenamento. Okay. Diciamo che se partiamo dal mattino, che è la cosa più vediamo semplice, chi quindi... vuole dimagrire. Ok, se io voglio dimagrire comunque non vado a fare attività fisica completamente a digiuno. Quindi quindi magari una spremuta, se mi va bene, un po' di latte, un po' di caffè, poco, con un po' di carboidrati, le fette biscottate, qualche biscotto, un pezzo di pane, mi va benissimo. Non devo però mangiare troppo, perché poi altrimenti non riesco a fare attività. Poi quando ho finito posso al limite prendermi uno yogurt o qualcosa. Se invece non devo dimagrire, vale la stessa regola, dopo l'attività, se ho fame, posso prendere un qualche cosa in più. Comunque non a digiuno, ma non caricare troppo e soprattutto non cose grasse, croissant, burro, cose di questo genere. Mentre per chi si allena nell'ora di pranzo? Allora, anche qui un po' la stessa regola, se ho fatto una buona colazione, allora posso anche andare ad allenarmi senza aver preso nulla prima e dopo mi prendo il mio pranzo. Se invece ho fatto una colazione molto leggera, allora un'oretta prima di andare ad allenarmi, un frutto, uno yogurt e soprattutto non dimentichiamoci di bere acqua, è una cosa importante. Andiamo alla sera, molte persone fanno allenamento a chiusura di giornata. A chiusura di giornata perché molte sono stanche, mai fare prima una cena, soprattutto se magari una cena importante, e dopo andare a allenarsi. Anche qui meglio fare la cena dopo l'allenamento, sempre comunque una cena abbastanza leggera, come stava dicendo prima la dottoressa Salvioli, e prima però di andare ad allenarsi, soprattutto se il pranzo è stato, diciamo così, molto molto leggero, a metà pomeriggio un frutto, un succo di frutta, un pacchettino di cracker, un pezzettino di pane vanno bene. Mi raccomando, quindi, anche se volete dimagrire, non vi venga in mente di andare a fare attività fisica senza aver messo niente nello stomaco. Soprattutto se poi l'attività fisica che si fa è di lunga durata ed intensa. Grazie alla professoressa Lucini per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi, a presto. Dottoressa Salvioli, concludendo, intanto per il nostro stomaco abbiamo visto un po' di attenzione a tavola, ricordiamoci di masticare lentamente, il ricorso a qualche alimento amico, broccoli, zenzero, curcuma e aglio. La professoressa Crelli ha sottolineato le virtù di questi alimenti che svolgono una funzione preventiva e protettiva nei confronti del nostro stomaco. Un po' di rilassamento, la tecnica di rilassamento abbiamo ripetuto, e la respirazione diaframmatica, ma se il problema persiste è meglio consultare il medico. Dottoressa Salvioli. Sì, sì, meglio consultare il medico, perché la patologia, quella un po' più acuta, che è l'ulcera, sì, una volta si pensava che desse al 100% dolore, in realtà questo non è vero, perché può dare dei sintomi sfumati che molto spesso vengono sottovalutati. Quindi anche lì bisogna, se il sintomo è presente da molto tempo, bisogna andare dal medico. Molto tempo, lei quanto? Molto tempo, un po' di mesi, ecco. Io direi dopo 3-6 mesi, ma anche 3 mesi, perché tenga presente che adesso con i farmaci da banco, quindi che non necessitano della prescrizione medica, sì, si tende ad autocurarsi. Allora, se ci si autocura e dopo un mese non abbiamo risultato, già un mese è sufficiente per rivolgersi al medico. E intanto ricordatevi, broccoli, zenzero, curcuma e aglio. Aglio con le dovute. L'aglio, poi se qualcuno vi fa venire le farfalle nello stomaco, ecco, scegliete se baciarvi o meglio andare di aglio. Grazie alla dottoressa Salvioli per essere stata con noi, grazie e buona giornata. In regia Carmelo Lauricella, in redazione Laura Faggin, io vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo su Facebook e in diretta domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.